Pronto, appunto, sei in onda, ok. Mi senti? Sì, ti sento, sì. Ok, ancora corrispondenza dalla Piazza Romana. Raccontaci un po' dove siete, perché arrivano molte telefonate che chiedono dov'è il corteo. Allora, il corteo sta ancora su Piede Chirico. Abbiamo passato il ponte di legno e i palazzi di Caltagirone, qui abbiamo fatto un intervento contro la speculazione. Questi palazzi praticamente sono stati costruiti su una zona verde ultimamente, e quindi è verde che tolgono al quartiere, al torsapiede. E poi è stato fatto comunque anche un intervento sotto le case di Giorgio Morandi, dove praticamente alcuni mesi fa sono, ci sono stati problemi con i migranti gestiti da forze comunque reazionarie di destra, e che hanno speculato su questo aspetto, e noi abbiamo voluto sottolineare che il problema non sono i migranti, ma sono le politiche insomma, che sia la giunte comunali e regionali, ma anche le politiche nazionali propongono. E quindi con la crisi, con la crisi economica, si accentuano anche problematiche relazionali di convivenza. Scusa, non so se mi riesci a sentire. Mi riesci a sentire? Scusa, non ti sento. Appunto, vabbè, volevo solamente interromperti per dire che appunto abbiamo sentito poco fa Reggio Emilia. Abbiamo sentito poco fa Reggio Emilia e i contenuti della manifestazione sono molto simili, perché si parla non solo di resistenza dei 70 anni fa, ma anche di oggi. Sì, e quindi i contenuti sono molto simili a quelli che raccontavi. Vai, continua, scusa. No, mi sono dimenticato prima di dire che il nostro è un corteo volutamente popolare, comunicativo e resistente. Noi non abbiamo voluto solo commemorare oggi il 25 aprile, ma abbiamo voluto unire quelle che sono le lotte di ieri con le lotte resistenti di oggi, insomma. Pronto? Ok, sì, ti sentiamo. Okay. Senti, ma che risposta vi sembra di aver visto dalla gente del quartiere? Sì. Il corteo sta diventando, si sta ingrossando, come vi avevo detto, ce l'aspettavamo questo, perché insomma raggiungere Torsapienza è un po' un problema, e adesso siamo all'altezza della Prenestina, ecco, la stiamo incrociando adesso, e diciamo che abbiamo raggiunto circa 2000 persone, forse anche di più. All'inizio insomma eravamo pochi, però insomma piano piano adesso faremo un pezzo di Prenestina e entreremo dentro Quarticciolo. Anche Quarticciolo è un quartiere popolare, e praticamente l'80% di Quarticciolo sono le case popolari che sono state costruite anni fa. Lì c'è un problema anche abitativo, insomma. Quindi volevamo sottolineare questo pure, insomma, passando dentro questo quartiere faremo un intervento pure lì, insomma. Va bene. Pronto? sì, ti sentiamo. Va bene, quindi allora ci aggiorniamo qui e magari ci rentiamo più tardi per proseguire, okay, appunto, okay, con seguire bene, questa lunga manifestazione. Comunque altezza via Prenestina siamo adesso. Perfetto, grazie mille. Ok, tra 10 minuti entriamo.